vostro padre la prova distrutto. E in ogni buon sacchetto il mondo aspetta. Non lo teme chi serve all'amore. Qui sorpresa non fa mai vivere. Cruda, sempre curvamo. Il curvate. In essendi, novelli, le note. Di Platò, sto, profete, profete in volumi. No, a difendervi qui resterò. Oh, profete in volumi. Vento lieto che t'avvolgi nel mistero. Oh.

senza impone, e gli si impone la mia vendetta. Yeah. stipendio, addio l'estremo. Ai fratei che al tempio sarò fra pochi istanti, lasciatemi. Cercare mi feste, sì, prevedo quai rimbrotti, non detto, non m'occorro a vendetta se bravate, solo un'inchiesta, quale? Che fareste se pur libera fosse lì? Io chiedo, rispondete, ma impossibile supposto, Fritz, s'avver Talina che qui l'attendo e che cercate, saper sia mai più cara, colpevol libertà. Donna che canna veste, là tutto udrete cielo. Inevitabil fu questo colloquio prima di separarci. Che partenza! Sì, questa sera. Come? Udite! Oh, Oh, eccomi. Qual donna? Qui restate? 的歌舞剧场就到这里，感谢您的收听，欢迎您继续收听北京音乐广播古典音乐有限频道下面的精彩节目。 Thank you.